Sono le 7 e qualche secondo. Chi vi parla è l'Ariele, ciao. In questo momento negli studi di Rock FM, via Locatelli 1, 20 124 Milano. Un po' imbalsito dall'influenza, ma ci sono. Potevo mancare, eh? Potevo forse mancare il 21 di dicembre per la puntata 151, per quella che sarà l'ultima puntata di Pane, Burro e Rock and Roll speciale Buon Natale però Rock. No, non avrei potuto mancare e infatti sono qui. Sigla. C'è anche Spadino, che quello sta sempre bello preciso, chi ti ammazza te, guarda un po'. Vabbè. Pane, burro e rock and roll. Tracu, tracu, tra. La tua colazione rock. La migliore. Pane, burro e rock and roll. L'unica in speciale Buon Natale però rock. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ehi amico, ehi amica, noi stiamo qui fino alle 9 del mattino per la diretta di Pane, Burro e Rock and Roll, ma in realtà, essendo oggi l'ultima puntata prima del Natale, aziendalmente ogni anno a Rock FM, nel giorno solitamente della vigilia, essendo questo giro un po' strano alla vigilia perché sarebbe lunedì, insomma martedì Natale, quelle robe lì, quest'oggi ci sarà dopo le 9, al termine di Pane, Burro e Rock and Roll, ci sarà gli auguri di Natale, come siamo soliti farli qui a Rock FM, quindi i telefoni aperti 0267 09 132. Dalle 9 in avanti potete venire in diretta al volo senza filtro e fare un po' gli auguri, salutarci, salutarvi, fare un po' quello che più vi pare e piace, il tutto dalle 9 in avanti, quindi resteremo qui ancora per un po', non si sa quanto. Intanto inizia non sto messo benissimo, devo confessarvelo, non si sente probabilmente, ma darò ugualmente il meglio di me essendo un vecchio professionista. Farò la puntata di maniera quest'oggi, eh? In attesa dell'arrivo di Roberto Fricantoni, anche quest'oggi gemma di questa trasmissione, darei inizio alle danze, no? Grazie Spadino. Inizia con Lady on the Line. Restate con noi, vi svegliamo al meglio. Togliamo la carogna e via che si va. Eh? Togliamo, ve la grattugiamo la carogna. Toglierla non è detto. Questo Natale vi crea problemi, inquietudini? Ditecelo, oggi o mai più. Lady on the line, Triumph 7-7. Dito che carica. La spingo per non svenire, capito? Buongiorno dall'Ariele. Belli svegli stamattina, bravi, complimenti. Che è? Che si avvicina al Natale? E scrivete. Allora mi sgridano che ho detto troppo veloce il numero di telefono. Lo ridico con calma. Servirà, ripeto, dalle 9 in avanti. Ho sentito già nella puntata di ieri, ho intuito che c'è attesa per la giornata dei telefoni aperti di Rock FM. Allora, a parte che ne ricordo, sono sempre puntate carine, perché a sentire la vostra voce, sapete, è sempre molto piacevole, è carino sentire i radioascoltatori che parlano nella loro radio preferita. E ieri, non ricordo con chi, stavo parlando per programmare un intervento di Pane, Burro e Rock and Roll, e l'amico mi diceva: senti, ma domani che c'è il telefono aperto, mi prometti che mi chiami, se no non trovo la linea. Non posso fare favoritismi, avete tutto il giorno a disposizione, prima o poi la linea la trovate. Dico il numero con calma, questo è il numero di telefono, da fare dopo le 9. 02 67 09 132. Meglio di così non potevo darlo. Mentre il numero di SMS, quello lo conoscete a memoria, 335 100 7777, è quello per intervenire via SMS. Poi, se volete essere richiamati dalla redazione di Pane, Burro e Rock and Roll, e volendo venire in diretta, ricordo anche la mail, che è ariel@radiorockfm.com, dove come al solito potete richiedere il calendario 2008, l'anno della svolta. Non ho ancora risposto a nessuno di quelli che hanno scritto, tranquillizzatevi, le mail sono tutte lì. Sto studiando la soluzione. State in una botte di ferro. Vi fidate dell'Ariele? Fidatevi. Prima o poi vi arriva sto calendario. Mentre proponevo, visto che dalle 9 in avanti c'è il telefono libero, a me sarebbe piaciuto comunque salutare i fedelissimi di Pane, Burro e Rock and Roll, i radioascoltatori che in 151 puntate hanno fatto da collaboratori fissi di questa trasmissione. Visto che tra l'altro nelle ultime due settimane molti di questi collaboratori fissi li avevamo parcheggiati un po' lì, perché c'era le due settimane di Buon Natale per Rock, io lancio l'appello: se siete all'ascolto, voi sapete chi siete, collaboratori fissi, quasi quasi vi chiamo, ci si fa un po' così, ci si saluta prima delle ferie, eh? Ok, direi che abbiamo imbastito la colazione di quest'oggi. È arrivato Freak, buona! Allora ci siamo, belli precisi. Guarda, arriva Freak e mi parte You're My Best Friend. Il Queen sta preciso. We'll be right back. Buongiorno Ariele, oggi è giornata... il 21 di dicembre, sì, Natale si avvicina, dovremmo essere felici, gaudi, contenti, ma non è così. No, non è così. Non oggi. Non oggi. È un venerdì, un maledetto venerdì, e tra poco c'è Natale, le sì. feste. Buone feste. Buone feste, facile dirsi. Facile dirlo. Buone Quando feste. Pane, burro e rock and roll potrebbe non tornare mai più. Mai più. Io non oso nemmeno pensarlo. Io quasi quasi andrei a fare un almanacco del giorno che fu triste, maestro. Ma molto triste, anche un po' depresso. Sì. Anche se ci terrei sì. a segnalare il fatto ce che il dica. 21 dicembre è il giorno del solstizio d'inverno. È veramente interessante, ma non riesco a farmela piacere. E nel 1821, il 21 di dicembre, viene giocata la prima partita di pallacanestro. Notizia euforica, ma in questo momento mi deprime. Era il 1937 quando al Cathay Circle Theater di Hollywood, mi stava venendo da ridere, invece sono triste. Anch'io, parecchio. Ci fu l'anteprima di Biancaneve e i Sette Nani. Ah, che divertimento. Deve essere stato sì. bellissimo. Lo penso anch'io, anche perché in quel film Walt Disney dette il meglio della sua produzione. Lei ha tirato su col naso, maestro. Perché sono facendo commosso. Riferimenti ironici alla figura di Walt Disney. Ma no, assolutamente, è solo perché sono commosso. Lei sta dando del pippardone a Walt Disney, lo ammetta. Il grande Walt. Lei sta insinuando su Biancaneve e Walt Disney. L'ha fatto? Lo dica. No. No. Chiudo. Non avevo Vorrei chiudere veramente in bellezza con una notizia datata 21 dicembre 2012. Una notizia avanti 5 anni. Nella data Maya. Maya. Del calendario Maya 13.0.0.0.0, che è il 21 dicembre 2012, secondo il lungo computo dei Maya, in questo giorno viene segnato il passaggio ad una nuova era del mondo. Ah. Le ricordo, maestro, che le nuove ere del mondo Maya erano solitamente segnate da catastrofi o distruzioni. Ah. Abbiamo ancora 5 anni. Ma tuttavia, forse qualche giorno. Ma tuttavia abbiamo sì. una ragione per essere comunque sì, meno pessimisti. Secondo alcuni esperti la data esatta sì. non è questa, ma il 23. Ah. Potremmo dicembre, guadagnare altri 2 giorni. Altri 2 giorni. Comunque lei sa che le profezie Maya sì. non è che si avverassero sempre. Lei dice perché? Ma perché le profezie Maya avevano la caratteristica di avverarsi Maya sempre. Non sempre, ma Maya. L'ho capita, sa. L'ha capita. L'ho capita. Era grazie. Pessima, grazie. Grazie. Grazie. Mi dia la pillola. A lei. Grazie. Yes I am. E prendiamo le file della trasmissione, è l'ultima puntata, ma insomma, essendo dei professionisti la faremo comunque, freak, dai tu. Tirati su. Spencer Davis Group. Allora, la mia redazione mi ha assegnato sulla scaletta di oggi che c'è un compito da portare a termine. La missione si chiama Brugherio Rock, il filo di fusione. Voi della prima mezz'ora forse non lo sapete, ve lo ricordo, c'è questo amico che ha un negozio in piazza Brugherio, dal quale parte la filo di fusione della piazza, con CD natalizi tutto il giorno. Nella giornata di oggi, nell'ultima mezz'ora, ci siamo messi d'accordo, il piano d'attacco è alle 9:15, abbiamo sincronizzato gli orologi. Quindi vi avviso, tenteremo di entrare nella filodiffusione di Brugherio. E si sente l'evento qui a Pane, Burro e Rock and Roll. Perché per la prima volta si fa questo esperimento che una radio entra a gamba tesa nella filodiffusione comunale di un paese. Da qui a colonizzare tutti i paesi del territorio il passo sarà breve. E quindi conquisteremo una rete network grazie alla filodiffusione comunale. Questa è l'idea, questo è il piano di battaglia, poi vedremo. Affineremo la cosa in queste ferie. Buon Natale per Rock, essendo oggi l'ultima puntata, è l'ultimo giorno nel quale possiamo ascoltare quel capolavoro che si chiama Buon Natale per Rock, che è il brano natalizio di Pane, Burro e Rock and Roll, che ci è costato soldi e fatica, soldi solo miei, fatica di tutti. Freak, diciamolo, l'ho pagata io Buon Natale per Rock. Ho fatto il signore, ho detto dai, offro io. Mi hanno fatto un prezzo di favore, devo essere sincero, però l'ho sempre pagata io. E allora ve la programmo a voi, miei amati, fedeli radioascoltatori e radioascoltatrici della prima mezz'ora. Buon Natale per Rock, alla voce l'Ariele, Fricantoni, alle chitarre Olli, l'Ariele, Isaac Rizzi, al basso Mister Pinguino. E chi più ne ha, più ne metta. Buon Natale, Rock. Caro babbo, babbo nel senso di Natale ovviamente, ti scriviamo perché vedi, qui il Natale non lo sente più nessuno. Dicono che è una festa commerciale, anche tu però sei un po' demodé, bisognerebbe lavorarci su. Se ti presenti in slitta, ok vabbè, ma quelle povere renne, tu pensa con una moto rombante, un giubbotto ripelle. Però nero, snellisce. Ci vuole un'idea geniale, Natale. Ci serve qualcosa, facciamo un Natale rock. Buon Natale. Però un Natale rock. Un Natale sfrenato. Buon Natale. Questa volta che sia rock. Un Natale rock. Già che ci siamo, mi piacerebbe tanto avere la voce del cantante degli AC/DC. Dai, dimmi di sì. Le sparme impazzirebbero con quella barba bianca. Ehi, dove credevi d'andare? Se tutti scrivono alla concorrenza, non ti puoi lamentare. Con quel capello lungo, quel castello già in partenza, allora sai che si fa un tatuaggio rock. Un abete. Ci vuole un'idea geniale, Natale. Ci serve qualcosa, facciamo un Natale rock. Buon Natale. Però un Natale rock. Un Natale sfrenato. Buon Natale. Questa volta che sia rock. Un Natale con le porte. Che invecchiare come Mick Jagger degli Stones, ah, sì, mi piacerebbe tantissimo, anzi tanterrimo. Magari anche avere l'agendina con i numeri delle groupies, se si potesse. Non fare quella faccia, dai. Lo sai, anche tu puoi essere un rocker se lo vuoi. Devi soltanto volerlo, Natale, ti serve qualcosa, facciamo una solo rock. La canzone scaricabile gratuitamente da punkrockers.it, così poi ve la potete ascoltare anche nelle ferie, no? Ai pranzoni, cenoni, quelle robe lì. Ci mettete su insieme a White Christmas, che ne so, a che si sente a Natale, si CD di Sinatra, quella roba lì, ci spiazzate dentro anche Buon Natale però rock. Intanto io avviso gli amici che stanno ascoltando nella zona Brugherio di prepararsi per le 9:15 ad attaccare il centro storico di Brugherio. Oh, si parte da lì, poi dopo vedremo di occupare anche altre piazze. Un Natale sfrenato! Siete veramente tantissimi, forse record di accesso della prima mezz'ora al 3351007777. Vi ringrazio perché è un piacere sentirvi. In maniera particolare quest'oggi che sono un po' messo così. Forse si sente. Qualcuno scrive anche che ho la voce più. Che ho la voce sexy stamattina, si deve essere il raffreddore, solo quello. Saluti a Gian, mitico! Compio 41 anni, mi fate gli auguri di Buon Natale, ma certo, Buon Natale però rock. Un saluto a Sebastian, Ale, Luca. Questo non si firma, però si lamenta che non ci sono le puntate in archivio. Non è colpa nostra, ragazzi, noi le abbiamo mandate tutte. Si deve essere ammalato qualcuno a RadioRockFM.com. Salutiamo Mauro che non vede l'ora, stasera verrò in possesso del mitico calendario, ma voglio vedervi te, Max e Mister Trombetta vestiti da Babbo Natale. Mauro, no, te l'ho già detto che non veniamo vestiti da Babbo Natale, però ci vediamo stasera all'ippodromo a Firenze, dove potrete, se lo volete, prendervi il calendario 2008, l'anno della svolta. Ho bisogno di Mister Trombetta, che stasera devo uscire con una tipa che mi manda fuori di testa più del metallo più peso. Oh Eddie, mi raccomando, facci sapere dopo le feste com'è andata. Di solito funziona, Mister Trombetta. Salutiamo Gianfranco Boys, mitico Gianfra. Oscar.